intento dei presunti jihadisti di voler progettare attentati. È uno dei più pericolosi boss della tratta di esseri umani. Volevano portare morte e distruzione nel nome di Allah, ma il business era soprattutto l'immigrazione clandestina. Decine di viaggi dalla Libia. Spintoni con gli agenti quando alcuni attivisti hanno provato ad avvicinarsi alle barriere. Uno dei manifestanti è stato fermato dalla polizia. I profughi sullo sfondo sono coloro che protestano, che chiedono di poter entrare quando la Francia ha blindato le frontiere, di varcare il confine. Blindato le frontiere.